giornata, il pranzo. E soprattutto c'era un set di pendole che ti veniva proposto, anche se non lo sapevi, ti veniva proposto durante il viaggio. Ecco, la storia di Alberto parla esattamente di quello, ma soprattutto parla di come ci possono essere dei segnali che le cose cominciano ad andare male, e forse quei segnali bisogna veramente ascoltarli. Devo premettere che ho sempre detestato quelle gite in pullman a poco prezzo nelle quali si viene scorrazzati in malo modo per raggiungere qualche improbabile località turistica. E durante tutta la gita gli organizzatori tentano di vendere set di pentole, materassi, corredi, miracolose macchinette per filtrare l'acqua, apparecchiature per curare definitivamente il mal di schiena e quant'altro di più bizzarro si possa immaginare col comune denominatore della fregatura. Ma a questo si è più o meno preparati. Lo si comprende e lo si accetta con rassegnazione. Ad ogni modo, quella volta mi feci convincere da mia moglie, la quale mi chiese di accompagnarla a visitare una cittadina in provincia di Viterbo, utilizzando una di queste formule. Accettai soprattutto perché meta dell'escursione era un paesino dove da bambino, nei primi anni 50, passai un mese grazie ad una colonia estiva per bimbi non abbienti, come si dice oggi. Il fatto era che dopo la guerra, per noi bambini poveri, come si diceva allora, quell'esperienza ci sembrò quanto di più emozionante avessimo mai vissuto. Caprarola, in provincia di Viterbo, mi siamo andati in colonia e noi bambini stavamo tutti quanti nell'ala che poi abbiamo saputo erano le stalle, dove erano state riadattate, ci hanno fatto delle grandi camerate. Dove noi dormivamo tutti quanti in fila in questi lettini come si usava tanti anni fa. La curiosità di rivedere questi posti 50 anni dopo, di cui avevo ricordi così belli, mi spinse quindi a partecipare. Certo, potevo anche andarci organizzandomi per conto mio, ma pensai che andare in compagnia di alcuni amici che già avevano aderito potesse fungere da antidoto agli inevitabili aspetti negativi. E quindi si parte. Il ritrovo era previsto per le 8 e subito ci trovammo perplessi e divertiti a dire quasi in coro: il pullman, ragazzi, è uguale a quello di Fantozzi. Ci feci una risata con gli amici e incrociai le dita. Dopo una breve sosta in autogrill per la colazione, come da programma si doveva andare spediti verso il paesino. E qui il primo infausto presagio. Preoccupanti rumori e tremori dal basso del pullman giunsero minacciosamente a turbare i piani e l'atmosfera. L'autista scese 3 volte lungo il tragitto per compiere misteriose operazioni intorno al mezzo, che sembravano però dei rituali tesi a scongiurare il verificarsi del peggio, più che veri e propri interventi meccanici. Secondo infausto presagio. Iniziò a piovere. A piovere in modo torrenziale. L'acqua picchiettava violenta sui finestrini e sul parabrezza pareva ribollire. Arrivati nel pressi del paesino, il pullman si fermò a circa 2 chilometri dallo stesso, poiché era impossibile proseguire. Le strade per raggiungerlo, costruite nei secoli scorsi, non avevano previsto che un giorno ci volessero passare ingombranti e squinternati torpedoni. E qui, terzo presagio. Era però anche impossibile scendere a terra, poiché diluviava senza interruzioni e l'acquazzone aveva ormai inzuppato il terreno, tanto da farlo apparire un enorme acquitrino melmoso. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Il presagio è una previsione del futuro basata su segni premonitori, ma è anche una sensazione interiore riguardante gli eventi futuri. Ecco perché vi chiedo di riflettere su questi 3 presagi: rumori dal fondo dell'autobus, acqua torrenziale che pioveva sopra le nostre teste e il terreno melmoso che ci aveva impedito di scendere. Vi chiedo di tenerli a mente perché torneranno utili nel proseguo della storia. Quindi, non potendo scendere dalla corriera per via della fortissima pioggia, rimanemmo circa 1 ora seduti nel pullman ad aspettare quei pochi ardimentosi, per lo più i giovani, che si erano avventurati sotto il nubifragio. Pazienza, pensai. Ci tornerò per conto mio, rincuorato dal fatto che quantomeno la giornata non era buttata via, visto che avremmo fatto il pranzo in piacevole compagnia degli amici al ristorante. Ma anche quella si rivelò una pia illusione. Mai mangiato così male in vita mia, anzi, in modo riprovevole, al punto che qualcuno, scherzando, disse: «Ci avvelenano perché non avevamo comprato niente!» E lì mi ritrovai a rimproverarmi per l'ennesima volta. Con quello che paghi, che cosa pretendi? Abbiamo fatto questa gita, ci hanno portato a pranzo a un certo punto che fa parte del pacchetto, però era molto scadente, era proprio una cosa penosa da mangiare. A me mi fece male, tra l'altro, e mi trovai in una situazione veramente incredibile, insomma, guardandomi allo specchio dissi: come sono ridotto, insomma, una cosa del genere. E a questo punto accadde l'irreparabile. Sintomi inequivocabili, quali sudori freddi e forti dolori dal basso ventre, mi spinsero a raggiungere di corsa il bagno del ristorante. Appena seduto sulla tazza, una violenta scarica mi liberò dall'appena ingerito pranzo. Con sgomento e inorridito, dopo aver tentato di scaricare il water, mi avvidi che lo stesso era drammaticamente ostruito. E non potevo nemmeno uscire vigliaccamente facendo finta di niente, perché la porta di quello che era l'unico bagno disponibile nel ristorante dava direttamente sul salone, dove tutti, ma proprio tutti, stavano mangiando. Mi guardai nell'immagine riflessa di un piccolo specchio incrinato appeso ad un chiodaccio arrugginito e ci scorsi la faccia di un uomo dall'espressione disperata per la vergogna, una faccia in cui stentai a riconoscermi. Riuscii però a non perdermi d'animo. Presi lo spazzolino del bagno e con una furia forsennata diedi una gragnola di colpi sul fondo per liberare quell'ostruzione. Udii un forte gorgoglio che, come per magia, stappò il tutto e io potei uscire dal bagno con noncuranza. Non però prima di avere stramaledetto il momento in cui mi ero messo in quella situazione. Fuori, intanto, continuava a piovere forte. Nubi basse e rimbombanti di tuoni sempre più cupi rendevano quanto mai scuro il paesaggio, allineandosi perfettamente al mio livido umore, mentre ripensavo ai tre presagi che mi avevano preannunciato quella catastrofe. Rumori dal basso, acqua torrenziale e terreno melmoso. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glow. Glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart. Voi siete qui. Voi siete voi qui. Siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Alberto ha una faccia che in qualche modo tutti noi conosciamo. Non è la faccia di un nonno, non è la faccia di un papà, forse è un po' più la faccia di uno zio. Ha su una camicia a righe e un cardigan aperto a coprirgli solo le spalle. Ha i capelli grigi, il volto buono e un po' perplesso per la fotografia, non è abituato a farsi fare foto. È in casa, ha una parete bianca alle spalle e sulla parete bianca ci sono delle fotografie appese e incorniciate. Quella sulla sinistra non capisco cosa sia, ma quella alla destra è chiarissima. C'è un uomo, forse lui, forse suo padre o suo fratello, che stringe la mano al Papa. Non questo, quello prima, Papa Wojtyla. Dai, facciamo sto dizionario. Gita. Sostantivo femminile. Lunga passeggiata o breve viaggio a scopo turistico o ricreativo. Arcaico, andata, missione. Etimo, derivato di gire. Data, secolo XIV. Perfetta, non ho fatto un errore. Attraversando la nostra bella penisola, noi sentiremmo passo dopo passo, attraversando il territorio del bel paese, pieno d'Alpi e d'Appennini che rendono difficoltoso il nostro ire, noi sentiremmo il cangiare del dialetto, partendo dai dialetti del nord, quelli di Monti, quelli di monte che parlano tutti con l'acqua, quelli di monte che parlano tutti così, che parlano di monte a monte. Uè, Google, che ci va conmigo, che te lì, no, che vado lì, c'è su. Mano a mano che siedi di monte, che vai verso valle, trovi a pianura padana, il dialetto si schiazza. Uè, c'è che, se va più lavorare, che la cadrega. Questa è una delle cose più belle, secondo me, che ha fatto Enrico Brignano, o che ho visto fare Enrico Brignano in televisione, ed è una sorta di viaggio, una gita in Italia, partendo dal nord e andando al sud. Paolino, però, se riusciamo ad andare un po' più giù, un po' verso il sud, è come se fosse una radio che si sintonizza sui vari dialetti e dal nord arriva giù. La cozza, la focacci. Questo cos'è, Calabria questa? Puglia. Le Sicilie. Questo è il viaggio di Enrico Brignano, è la gita italiana di Enrico Brignano. Se avete voglia di sentirla, magari la linkiamo sul profilo Facebook, o comunque la trovate su YouTube. 349-238-6666, oppure Voi Siete Qui, Radio 24. Si parla di gite in giro per il paese, per in giro per l'Italia. Paola, gita all'italiana in pattino la scorsa estate. Valgono tutti i mezzi. Pattino, Paolino, questa è roba tua, eh? Cioè, ma che differenza c'è tra il pattino e il pedalò? Che il pattino ha i remi, giusto? Il pedalò invece ha i pedali. Da voi si chiama moscone cosa? Il pattino. Ok, da voi parliamo di Adriatico. Comunque, gita in pattino con tanto di ustione di secondo grado e ricovero di 2 giorni all'ospedale di Porto Sant'Elpidio. Quindi comunque è zona tua. Marco, le gite all'italiana oggi le fanno gli inglesi che partono da Londra con Ryanair, atterrano a Bergamo e vanno all'Orio Center a fare shopping. È vera sta storia, l'ho sentita, che siccome gli costa tipo 10 sterline un volo, arrivano a Bergamo, all'aeroporto, e lì c'è un centro commerciale di fronte e si fanno un grande shopping. Giovanni, invece, sul profilo Facebook: anche io ho partecipato a una di quelle gite delle pentole. Ero con i miei zii e andammo a visitare Lerici e Porto Venere, partendo da Pavia. Anche a Roventino davano gite in Liguria. Pranzammo al sacco e fummo obbligati a comprare un tostapane e una pentola a pressione. Il tostapane a 20 anni di distanza è ancora quello che uso la mattina per la colazione. 349-238-6666. Comunque anche Giovanni conferma che queste robe qua, appunto, 20 anni fa ormai, come suggeriva Alberto, sono antieconomiche. Gianfranco, questa più che una gita all'italiana è una zingarata. Ogni anno con 6 amici, sempre gli stessi, e sempre ai primi di ottobre andiamo via un weekend a fare degustazioni per cantine. C'era un ascoltatore, ti ricordi, di Bergamo, che faceva il dentista, che andava in giro, era vendo tutto ancora, il primo anno che eravamo qua. L'ultima volta il weekend è durato 5 giorni. Quando siamo tornati il mercoledì c'erano un paio di mogli che stavano già chiedendo la separazione. 349-238-6666. Pensando a gite all'italiana, abbiamo pensato di immaginare come le vedono gli stranieri che vengono in Italia e che vengono a fare delle gite italiane. Abbiamo pensato di prendere una guida tipo la Lonely Planet Italy, quella per stranieri. Poi invece ci è venuto in mente che forse la prima grande gita raccontata da uno straniero, nella fattispecie un tedesco, quindi è proprio, siamo nel pieno del luogo comune, la fece Goethe quando nel 1786, perdonatemi, venne in Italia. Doveva fermarsi qualche mese, si fermò praticamente 2 anni, e lui fa come Brignano, cioè parte dal nord e scende al sud, passa da Venezia, Bologna, Roma, arriva a Napoli, va in Sicilia e poi torna su e torna in Germania. Lui è innamorato dell'Italia e insomma la descrive in una maniera meravigliosa, ma ne descrive anche qualche piccolo difetto, e soprattutto nei difetti questo paese sembra uguale a se stesso oggi come nel 1786. Ho preso una parte a caso del suo viaggio in cui passa da Venezia, che è la tipica gita peraltro italiana, una bella giornata, una giornata e mezza a Venezia, passa da Venezia e la descrive come la città più bella che abbia mai visto, e poi però fa un piccolo appunto sulla pulizia delle strade. Venezia, 1 ottobre 1786. Ho fatto un giro ed ho osservato sotto vari altri aspetti la città. Ed essendo appunto domenica, sono rimasto colpito dalla grande sporcizia delle vie, a proposito della quale non ho potuto trattenermi dal fare le mie brave considerazioni. Certamente esisterà qualche regolamento di polizia in materia. La gente butta le immondizie negli angoli e vedo anche dei barconi andare su e giù, sostare in certi punti e portare via il sudiciume. Tutta gente delle isole circostanti che ha bisogno di concime, Se non che per questi provvedimenti non c'è né ordine né severità alcuna. Ed è veramente imperdonabile la sporcizia di una città come questa, che potrebbe essere tenuta pulita alla pari di qualsiasi città olandese. Tutte le strade sono selciate e perfino i più remoti quartieri sono forniti di marciapiedi di mattone, dove è necessario il suolo è nel mezzo alquanto elevato, ai lati invece di grada in certe cunette per raccogliere le acque e farle scorrere nei canali coperti. Altri provvedimenti tecnici dell'antico piano di costruzione così bene inteso attestano dell'ottima intenzione di quei bravi architetti di fare di Venezia la città più pulita, come infatti è la più singolare. Io non ho potuto nemmeno rinunziare durante la mia passeggiata ad abbozzare su due piedi un regolamento di polizia in piena regola, ad impartire naturalmente le mie brave istruzioni all'ispettore, tant'è vero che non manca mai né il tempo né la voglia di impicciarsi nei fatti altrui. La mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh, non svegliate, ecco, visto che è arrivato subito un messaggio che dice Goethe come soliti tedeschi che vengono in Italia e poi ne parlano male, volevo semplicemente far ricordare che Goethe ha scritto un libro che sono 650 pagine e in una di queste dice questa frase: posso dire che solo a Roma e in Italia ho provato che cosa propriamente voglia dire essere uomo. Quindi questo giusto per capirsi. Sono arrivati un sacco di messaggi, ma ve ne leggo uno su tutti perché mi sembra quello più rappresentativo di questa puntata ed è poi era quello che preferivo perché parla di Alberto. È Pietro che dice: Alberto ha la voce e l'inflessione dell'italiano buono, capace e gentile, il rappresentante anonimo eppure migliore di questo paese. Grazie a Pietro, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie però soprattutto ad Alberto. La sera di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.